Lei mi vuole dentro fare il ringo, con il cappottino e la mia sciarpa. Vuol vedere le mie scarpe da vicino, vuole che le accarezzi i capelli. Ok, lei mi vuole dentro fare il ringo. Ok, vuole che le gridi nei suoi jeans. Ok, devo farmi in quattro come i Beatles, dopo aprire il terzo occhio con un dito. Yeah, lei mi vuole dentro fare il ringo. Ok, vuole che le gridi nei suoi jeans. Ok, devo farmi in quattro come i Beatles, dopo aprire il terzo occhio con un dito. Yeah, dentro fare il ringo. Ok. Lei mi vuole dentro fare il ringo, ok. Vuole che le gridi nei suoi jeans, ok. Devo farmi quattro con un Beatles, dopo aprire il terzo occhio con un dito. Yeah. Ok. Yeah. Ok. Ok. Lei mi vuole dentro fare il ringo, ok. Vuole che le gridi nei suoi jeans, ok. Devo farmi quattro con un Beatles, dopo aprire il terzo occhio con un dito. Yeah, lei mi vuole dentro fare il ringo, ok. Vuole che le gridi nei suoi jeans, ok. Devo farmi quattro con i Beatles, dopo aprire il terzo occhio con un dito.